su M2O. Inizia il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. E altre storie. State ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino, musicista tanzerino. M2O, mica una radio a capocchie. Il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333 64 67 662. We'll be right back. una mixata, va. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Forse no, e sveglia, mi guarda, non so. Cammino del Gigi D'Agostino, se caccia via lo spirito maligno. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve in interrottamente. contingenza, alla contingenza, alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che vuol venire. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora, la musica c'è. Libera danza, battito lento. Sera, sabato 5 maggio 2007, grande raduno lento, violento del centro Italia. Dalle ore 22 suona Gigi D'Agostino, discoteca 24.000 baci, Latina.

Propagando a macchia d'olio, divenendo un emblema sociale e ideologico di alternativa culturale alla globalizzazione. Lento, violento, lento, violento, lento, violento. E altre storie, storie. Lento, violento, lento. Violento, lento, violento. Divenendo un emblema sociale e ideologico di alternativa culturale. Ascoltando una musica bella da ballo, bella da ballo, bella da ballo, da ballo, da ballo. E io sono Gigi D'Agostino, musicista tanzerino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia.